Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Internazionalizzare per crescere. Le storie di Inglesina e Orange One di Adriano Palazzolo. Nuova puntata del ciclo di Voci di impresa in cui, in collaborazione con Intesa San Paolo, Radio 24 racconta le storie di aziende italiane di successo in varie zone d'Italia. Dopo l'evento Sharing Italy, in cui più di 150 imprenditori si sono confrontati su soluzioni di sviluppo concrete, siamo andati alla ricerca di case history dove lo spirito imprenditoriale è riuscito a trasformare piccole botteghe, laboratori e stabilimenti in aziende di respiro internazionale, grazie a strategie vincenti basate su elementi come la filiera, l'internazionalizzazione, la promozione del Made in Italy nel mondo e l'innovazione. Storie di donne, uomini e imprese, ma anche di territori che raccontano esperienze di successo, che possono essere di esempio per una crescita economica che si diffonda in tutto il paese. In questa puntata speciale di Voci di impresa vi raccontiamo la storia di due aziende che hanno puntato sull'internazionalizzazione per crescere e svilupparsi. La prima storia arriva da Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. L'azienda si chiama Inglesina, un nome che ormai sostituisce quello del prodotto venduto, carrozzine e passeggini per neonati, oltre che accessori per la prima infanzia. Inglesina nasce nel 1963 e a raccontarci come si è evoluta in questi anni è l'amministratore delegato Luca Tomasi. Credo che sia stata un'evoluzione tipica, no, dell'impresa italiana, nel particolare del nord-est veneta, partendo da una location che era di fatto una stalla, no, un'ex stalla di genitori contadini, e c'è un'intuizione per cui a un certo punto comincia questa avventura. E negli anni 60 sono gli anni della scoperta del marchio, si chiamava in realtà all'inizio Fratelli Tomasi, ma poi subito è chiamato Inglesina, e cominciata un'avventura come, diciamo, una parabola più o meno simile e analoga a tante aziende, ovvero il primo mercato domestico, le prime fiere locali. All'epoca nascevano 1 milione di bambini in Italia, oggi ne nascono meno della metà. Un mercato anche provinciale o regionale era già un mercato molto interessante. Poi via via con la conquista dell'Italia, con le fiere di settore, e poi verso gli anni 70 i primi approcci con i mercati esteri. Casualmente il primo mercato nostro è stato Israele, poi Cipro, sono stati due mercati, e poi pian piano l'Europa, l'Inghilterra, eccetera eccetera. Per cui direi una parabola abbastanza lineare di crescita per linee interne, dovuta soprattutto all'intuizione di allargare la gamma, non so, o non solo alle carrozzine, ma poi ai passeggini, e da lì cominciano anche i vari mercati esteri. L'azienda nasce per volontà del padre di Luca Tomasi, Liviano, che ha l'idea di recuperare il concetto di carrozza inglese e riproporla in piccolo. Da qui il nome Inglesina. Gli anni sono quelli del boom economico, ma anche del boom di nascite. Gli affari vanno bene e anche in famiglia arrivano due figli, Luca e Ivan, da subito coinvolti in azienda, dal momento che sono loro stessi i tester dei passeggini. Poi, da grandi, negli anni 90, i due hanno iniziato la loro carriera a fianco del padre, prendendo poi in mano le redini dell'azienda e attraversando anche la crisi economica, che si è presentata però in maniera diversa rispetto a tante altre realtà imprenditoriali. In realtà la crisi economica per noi non è stato il momento più difficile, perché davvero dipendiamo dal numero di nati. Forse noi oggi paghiamo di più gli effetti della crisi, perché la crisi ha portato a una minor propensione a far figli, per questioni di economia certo, e anche al cambiamento di società. Per cui forse gli anni immediatamente la crisi sono stati più difficili paradossalmente per noi rispetto agli anni della crisi piena, in cui, diciamo, c'era l'onda lunga di una crescita economica per cui c'era più natalità. Un esempio molto breve e sintetico è Italia: 2007 nascono 570-580.000 bambini, 2017 480.000, per cui abbiamo perso purtroppo 100.000 nuovi nati all'anno. Quindi di fatto il nostro settore veramente dipende più dal numero di nati che non dalla disponibilità economica, perché comunque una carrozzina, un passeggino è non solo necessario, ma poi è un regalo da parte dei nonni anche, no? È uno strumento, un attrezzo di cui difficilmente si rinuncia. Semplicemente c'è proprio un mercato che ha una torta un po' più piccola, perché il numero di bambini è diminuito. E il calo delle nascite in Italia si collega direttamente anche alla maggiore attenzione che l'azienda pone nei mercati esteri. L'ultimo fatturato di Inglesina è stato di 50 milioni di euro e l'export conta per quasi il 60% del volume d'affari. L'internazionalizzazione diventa dunque fondamentale per trovare mercati nuovi e conquistare nonni e genitori di un paese in particolare, dove ogni anno nascono tanti bambini quanto tutti gli abitanti dell'Australia. All'inizio l'export era quello che avanzava dal mercato italiano, era proprio avanzava qualcosa, un po' di capacità produttiva, i mercati venivano forniti così. Poi pian piano ovviamente l'export diventa preponderante. Export vuol dire tutto, ma per noi vuol dire soprattutto paesi come la Russia, Spagna, Stati Uniti, Cina, Corea, che sono mercati insomma molto importanti per noi. Diciamo noi siamo più forti, più presenti nel bacino mediterraneo per tradizione, per cultura, per gusto. Grecia, Israele, Spagna, Francia, appunto, sono più vicine ai nostri gusti, per cui il nostro marchio è più popolare e più diffuso in questi mercati. Negli ultimi anni però abbiamo investito moltissimo per l'espansione del brand nei mercati asiatici, in Corea in primis appunto, ma anche Cina, dove siamo presenti con delle strutture dirette ma anche con un distributore, e dove abbiamo investito tantissime risorse e tempo, perché è il momento in cui devi impiantare il brand, per cui abbiamo seguito personalmente, mio fratello ed io, questo progetto di seeding e proprio di semina del brand, perché se all'inizio prendi strade sbagliate, sai, i distributori possono in qualche modo prendere e farsi la loro storia, invece noi abbiamo condotto questo percorso molto attentamente, consapevoli che la Cina poi a tendere sarà proprio il primo mercato. Nascono, ecco, parlando di nascite, 20 milioni di bambini all'anno, una nuova Australia che viene al mondo ogni anno. L'estero conta molto anche per Orange One, azienda nata nel 1970 a Bassano del Grappa, ma che dal 2004 ha sede ad Arsie, piccolo comune in provincia di Belluno. A spiegarci di cosa si occupa questa azienda, che oggi conta circa 1200 dipendenti, è il suo presidente, Armando Donazzan. Era una piccola azienda elettromeccanica, faceva manutenzione e ribobinatura di motori elettrici, quello che poi ci ha fatto crescere. Poi si è leggermente evoluta nella costruzione anche di motori elettrici, ma sicuramente a livello ancora di piccola elettromeccanica. Oggi Orange One è leader sul settore elettromeccanico, si vuole porre come tale. Ha tre divisioni, una di motori elettrici, una divisione del settore alluminio, presso Fusione Alluminio, e una di tornerie metalliche. A fondare l'azienda è stato il padre di Armando, Leone Donazzan, che, vista la determinazione del figlio, ha deciso di affidargli l'impresa di famiglia. Il passaggio di consegne avviene nel 1998. Armando è giovanissimo, ma con forza chiede al padre, altrettanto giovane per lasciare l'azienda, di fidarsi di lui e lasciarlo fare. Avevo già un ruolo, facevo la direzione commerciale, da 2 anni mi ero avvicinato in ogni caso a un direttore generale che avevamo all'interno dell'azienda, quindi avevo iniziato anche a sviluppare tutte quelle che erano la parte di managerialità, che non era solo esclusivamente la parte commerciale. Da sempre avevo il sogno di poter realizzare qualcosa di grande, e questo grazie a ciò che ha fatto vivere in me la famiglia, il papà. Ricordo degli episodi, degli aneddoti di quando ero bambino, che da sempre lavoravo all'interno dell'azienda, della piccola bottega di famiglia, e questo mi ha creato proprio questa grande indole, questo desiderio di poterlo fare. Nel 98 si sono create delle condizioni ottimali per poter chiedere al papà di fare questo salto, e quindi ho preso la palla al balzo in maniera molto decisa. Ho chiesto di poter acquisire l'azienda, quindi non di passare l'azienda ma di poterla acquisire, e per me questo è un punto di partenza, perché all'interno di tutto questo posso dire che ciò che oggi ho me lo sono guadagnato con le stelline. Però devo anche dire grazie all'intelligenza del papà, perché una persona così giovane, ancora con forte carattere, con delle grandi capacità, che poi mi ha accompagnato, mi ha aiutato durante questo percorso, ha deciso di passare al figlio, che avevo solo 28 anni, lo scettro, credendo in me. Quindi per me è una grandissima cosa. Orange One punta molto sulla ricerca e sviluppo, e gli investimenti sono concentrati non solo sul prodotto, ma anche sulla logistica e sull'ingegnerizzazione di hardware e software. Una delle politiche dell'azienda è stata ed è quella di investire attraverso le acquisizioni, come è accaduto durante la crisi, che ha permesso una forte crescita e un'internazionalizzazione, sia per quel che riguarda le vendite, sia per l'apertura di nuovi siti produttivi e sedi. Con la crisi nel 2008 abbiamo avuto la possibilità di acquisire molte società e la crescita è dovuta a questo, quindi abbiamo 14 realtà, di cui 12 sul territorio italiano e 2 all'estero, Ungheria e Romania. Il fatturato dell'anno scorso è stato di 120 milioni di euro, quest'anno puntiamo ai 230 milioni di euro, e la suddivisione è 50-50. E noi lavoriamo tantissimo in Germania, Olanda, Belgio, Austria e poi gli Stati Uniti, dove stiamo spingendo tantissimo, dove stiamo creando anche delle sedi. Dopo una crescita così importante bisogna anche sedimentare e consolidare. Non nascondo però che abbiamo un sacco di opportunità che stanno arrivando, quindi in questo momento le stiamo analizzando. È chiaro che non vogliamo farci mancare nessuna delle opportunità che abbiamo, quindi intanto partiamo con l'obiettivo di consolidare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.